in primo piano. Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Benvenuti da Giulia Crivelli, naturalmente. Cominciamo questa settimana dalla copertina dell'Economist, il numero dell'Economist in edicola da ieri, perché, come doveva succedere se vogliamo, la copertina è dedicata al fatto di questa settimana, cioè l'uccisione da parte di un drone americano del generale iraniano Qassem Soleimani. A volte l'Economist fa un'eccezione a questa regola del trattare un fatto di cronaca e proprio pubblica delle copertine che spiazzano un pochino, perché sono, appunto, per essere comunque per definizione news magazine, cioè una rivista di notizie, a volte, spinto dalla concorrenza con internet, l'Economist fa questa scelta. Ma questa settimana, se ci pensate, non poteva che essere Soleimani. E il titolo è Masterstroke or Madness? Punto interrogativo. Cioè l'Economist si chiede: ma è stato un colpo da maestro, masterstroke, da parte dell'amministrazione Trump, naturalmente, o un accesso di follia? Perché la grande incognita, lo abbiamo visto e nessuno ha una risposta in questo momento, è gli effetti che questa uccisione tramite drone, decisa da Trump senza nemmeno, a quanto si è appreso, consultare, come da Costituzione americana, alcune delle cariche più alte del Congresso, appunto, le conseguenze sono ancora abbastanza imprevedibili. L'altra copertina di settimanale che vi vorrei segnalare è quella di Time, il news magazine americano. In copertina una foto in bianco e nero di Nancy Pelosi, che è la speaker della Camera, la Camera bassa degli Stati Uniti, la House of Representatives. Si chiama speaker, che però non vuol dire, come si può tradurre letteralmente, cioè è l'equivalente del presidente della nostra Camera, per esempio. È democratica, perché i democratici hanno la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, mentre al Senato, la Camera alta, i repubblicani hanno una maggioranza, anche se di appena qualche voto. È la persona, Nancy Pelosi, che un po' a fine carriera, perché ha già detto che questa sarà la sua ultima legislatura, è la persona che ha deciso di avviare la procedura di impeachment di Donald Trump, l'ha messa in stato d'accusa, e Time pubblica questa grande sua foto di profilo in bianco e nero, e il titolo è Her Gamble, cioè la sua scommessa, perché, come avrete sicuramente sentito, dopo l'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti della messa in stato d'accusa, adesso la palla passa al Senato. C'è un impasse dovuto al passaggio di alcuni documenti che Nancy Pelosi sta perfezionando, accusata di voler in realtà artificiosamente ritardare il passaggio in Senato di questo voto sull'impeachment. In ogni caso, appunto, siamo soltanto a metà, e siccome, come vi dicevo, in Senato la maggioranza è repubblicana, quasi certamente la proposta di messa in stato d'accusa di Donald Trump, cioè l'impeachment, verrà poi bocciata. Ma passiamo all'Unione Europea, perché se l'amministrazione americana in questo momento sta affrontando alcune critiche interne ed esterne, anche l'Unione Europea avrà un 2020 molto importante. Primo, perché si è appena insediata la nuova Commissione Europea, il nuovo governo dell'Unione Europea guidato da Ursula von der Leyen, e poi perché ci sono tantissimi problemi all'orizzonte. E quindi da Vox Europe, questo sito che sempre vi segnalo, l'indirizzo è voxeurope.eu, vi segnalo un intervento di un giornalista, scrittore e saggista, Cass Muddle, che riassume nel titolo come lui vede il 2020 dell'Unione Europea. È ora che l'Unione Europea si assuma le sue responsabilità. Chiuso il decennio degli sconvolgimenti, il 2020 sarà l'inizio di un decennio, o forse più, di restaurazione. Non del passato, ma di un futuro ispirato ai suoi valori. Dopo aver sprecato anni a negare la realtà, l'Europa è costretta a fare i conti sia con la Brexit, sia con il disimpegno degli Stati Uniti. Questo del disimpegno degli Stati Uniti è naturalmente un tema importantissimo. Se andate a vedere le cifre, per esempio, dei militari americani impegnati in missioni all'estero, come questo è calato negli ultimi anni, quindi disimpegno da tutto quello che può essere una collaborazione anche all'interno della stessa NATO. Donald Trump continua a mettere nuove condizioni, vuole che i paesi diano contributi maggiori all'Alleanza Atlantica, e poi naturalmente c'è i nuovi schemi di alleanze che non sono più di alleanze ma anche di rivalità, che non sono più quelle che abbiamo conosciuto appunto nell'ultimo decennio, in quello precedente, ma sono nuovi e in alcuni casi ancora da definire. Anche abbiamo visto uno degli attori più da tenere più d'occhio sicuramente in questo periodo è la Turchia, in perenne attesa di che Bruxelles dia il via libera a una eventuale procedura di entrata nell'Unione Europea, ma non sembra molto vicino questo scenario, e poi naturalmente la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping. E segnalo a proposito della morte dell'uccisione del generale iraniano, che da tutti veniva considerato di fatto, oltre a capo dell'esercito, numero due del paese dopo l'Ayatollah Khamenei. Avete visto i funerali, le cerimonie funebri durate quasi 4 giorni in tutto il paese. Ce n'è stata una, riferisce il Berliner Zeitung, anche a Berlino, nel quartiere di Neukölln. Circa 50 persone hanno manifestato in strada e un centinaio si sono riunite in una moschea vicina. Pensate che erano quasi più i poliziotti delle persone, perché c'erano 150 poliziotti ad assicurare che tutto questo si svolgesse in modo pacifico. Lo sapete, in Germania c'è una buona fetta di popolazione di fede musulmana, ci sono tantissimi turchi di prima o seconda generazione, quindi questo scenario così incerto in Medio Oriente, e naturalmente anche tutte le divisioni interne al mondo musulmano, sono considerate molto appunto delicate e da prendere con molta serietà e da maneggiare con cura, potremmo dire così, da parte delle autorità tedesche, naturalmente anche da quelle della capitale. Una nota un po' più leggera: avrete seguito sicuramente questa vicenda rocambolesca di Carlos Ghosn, ex numero uno di Renault, di come dopo essere stato in carcere, dopo essere stato agli arresti domiciliari per più di un anno in Giappone, è riuscito a scappare, è tornato in Libano, che è il suo paese natale, e secondo Le Monde Netflix sarebbe già in trattative per avere i diritti di questa storia. Quindi la storia di Ghosn, che comunque è un personaggio anche soltanto come manager molto interessante, e poi naturalmente questo epilogo con questa fuga di cui non sono stati chiariti i dettagli nella conferenza stampa che lo stesso Ghosn ha tenuto mercoledì in Libano. Per quanto riguarda, abbiamo detto, dell'Europa, dei problemi dell'Europa, naturalmente uno dei paesi che sta attraversando un momento di grande difficoltà è la Francia, perché il presidente Macron vuole andare avanti, sembra intenzionato a far passare questa riforma delle pensioni che la Francia aspetta da molti anni, radicale, seria, piccole pensioni, maquillage ce n'è stato, come del resto in Italia, però non c'è stata, come invece in Italia, una riforma molto che incidesse in profondità soprattutto su chi aveva dei regimi privilegiati di sistema pensionistici. Macron ci sta provando, sta incontrando moltissime resistenze, e secondo Le Figaro, un sondaggio di questi giorni, il 61% dei francesi continua a ritenere giustificata la mobilitazione contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. È un sondaggio appunto realizzato per Le Figaro da due società, e il 57% però dei francesi auspica che si ponga un termine agli scioperi, che ormai sapete durano da più di un mese, hanno avuto effetti in particolare sui trasporti, in questi giorni ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, il premier Edouard Philippe si dice disposto a tornare a un tavolo di negoziazione. Per invece, anche sempre appunto per guardare oltre a quello che sta succedendo in Medio Oriente e oltreoceano, anche a guardare all'interno dell'Unione Europea, guardiamo un attimo al Regno Unito, anche se come sapete in realtà la Brexit c'è stata, ormai si farà, diventerà ufficiale al 31 di gennaio di quest'anno, e poi dovrebbe diventare operativa, possiamo così dire così, tra esattamente più o meno un anno, poco più di un anno, cioè il 31 gennaio del 2021. E a proposito di Regno Unito, la BBC ha parlato molto di questo, di questi dati, che perché per la prima volta negli ultimi 5 anni sono calati gli omicidi, sono scesi da 774 a 650, però ci sono comunque, sono aumentate le violenze tra i più giovani, e questo soprattutto nella capitale e in altre città, e questo naturalmente preoccupa molto. Ultimissima segnalazione, perché l'ho trovata molto divertente, dalla CNN, dove sono comparsi Stephen King e Tom Winslow, due grandi scrittori americani, che si sono detti pronti a donare $200,000 a un ospedale per bambini se la portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, terrà un briefing. Sono infatti 300 giorni che questa persona, il cui lavoro dovrebbe essere quello di tenere briefing, non ne tiene uno, e quindi questi due scrittori, insomma, tra il serio e il faceto, hanno detto: sono $200,000 in beneficenza, l'unica cosa che chiediamo a questa signora di fare è il suo lavoro. Il tema è che Donald Trump accentra anche questo tipo di comunicazione, che quindi, appunto, diversamente da quanto accadeva con i precedenti, è lui che tiene questi briefing, questi incontri con la stampa. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.